fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Buonasera, buonasera di nuovo a tutti, 2.58 del mattino, sabato 21 luglio del 2018. Andiamo avanti con i festeggiati, andiamo avanti con tutti coloro che stanno avendo un motivo per essere qui con noi stasera. È il momento di un doppio compleanno dei due ragazzi che sono venuti a trovarci e con cui chiacchieriamo in questi minuti. Vai, partiamo da voi, partiamo con le presentazioni. Ciao a tutti. Ma liberi, liberi, come a scuola. Sono Michael, proprio 30 anni, forse. Forse, no, già dei dubbi, già dei dubbi. Poi c'è il mio amico Visma. Che anch'io compio 30 anni, di sicuro. Lui è più sicuro, esatto, più sicuro di Michael, è più certo. A me mancano certo ancora 11 giorni, quindi vediamo. Puoi cambiare idea, in questi 10 giorni puoi cambiare idea. Esatto, esatto. Allora ragazzi, da dove venite? Da Bergamo. No, Montello. Montello. È giusto mantenere salde le proprie origini e ricordarle, assolutamente. Cosa fate nella vita a Bergamo, insomma, nelle vostre zone? Io vendo auto, soprattutto i miei amici che si trovano tutti bene con le mie vetture. Bravo, mi piace. A prezzo più alto, ricordiamolo, del mercato. Tu non fai niente, è un bellissimo lavoro. Ah, ok, no, si sa mai. Vive di rendita, bene, mi fa piacere. Non siete soli, avete sentito anche voci di altri, non so, amici, colleghi. Diteci un po' voi chi è qui con voi stasera in questa festa. Allora, c'è qua mia moglie. Ok, quindi più che un'amica, penso. Sì. E anche più di una collega. Mia moglie. Poi c'è qua il mio amico, qua in parte a me, con la sua... pensavo col suo telefono. Con le sue amiche, insomma, ah, okay. Diciamo. Con le sue amiche. Forse fidanzate. E te invece? Insomma, okay, nel momento della scelta è il tuo amico, è un po' uomini e donne. Dovresti andare uomini e donne. Esatto, è il momento importante della scelta. C'è qua il nostro amico Claudio Vezzoli che voleva dirci qualcosa. Lascia il numero di Claudio. Se in cerca di morose, lascia il numero. Buonasera a tutti. Io vorrei festeggiare con un grandissimo coro i miei due amici Michael e Visma. Per i festeggiati. I pip! Urrà! I pip! Urrà! I pip! Urrà! Urrà! Urrà! Urrà! Urrà! Oh, il coro più tradizionale del mondo che però non muore mai, fa sempre bene, fa sempre bene. Ok, poi andiamo avanti con le presentazioni, chi altro c'è? Poi abbiamo... ha preso la scena lui ormai, ha rubato la scena, ha festeggiato. Quattro bellissime ragazze, vogliamo dire i nomi magari? Vai, dilli tu o se vogliono dirle loro. Presentarle, presentale. Vai, presentale pure. Abbiamo dalla sinistra la sposa. Anche sposa, quante robe festeggiate stasera? Vabbè, dai, presentale tu. Che bella sposa. Buonasera a tutti. Timidissima. Sono anche le due e mezza. Vai, Franci. Scusate, è la sposa. Siamo un po' imbarazzati. L'emozione dell'esordio è normale. Allora, benissimo. La moglie del mi piace questo grosso sentimento. La moglie del oh, parla, dai! Buonasera a tutti. Abbiamo una ragazza bionda direttamente da Bergamo. Montello. No, io sono di Bergamo Centro, siamo francesi. Mi vuole specificare, abbiamo giusto? Abbiamo una ragazza rossa come il fuoco. Buonasera, sono Gaia. E un'altra ragazza bionda. Due bionde in compagnia. Si chiama Federica, si vergogna. Ricordiamo che è un'imprenditrice. Il suo negozio si può F.Ede a Chiari in provincia di Brescia, purtroppo. È buona, buona pubblicità, certo, giusto. Che cazzo ti vuoi dire? Federica Fusaro. Via. Troppi dettagli. Passiamo a noi. No, ricordiamo ovviamente. Oh, ma mancano allora, due uomini ancora. Invece facciamo squadra. Parte di una squadra di calcetto. Oh, bello. Sponsorizzata da Garage Le Mans. Ah, pensavo dal negozio della F.Ede, no. Anche bene. Bene, brava. Fai girare l'economia. Praticamente quest'anno facciamo parte di una squadra tutti assieme noi amici, dove abbiamo un direttore sportivo che è sempre ragazzo che compie gli anni, che fa 30 anni. Si chiama Vismara Marco. L'altro ragazzo, imprenditore, del garage Le Mans a Montello, rivenditore auto, officina, Michael Ghilardi. E poi abbiamo F. Amone. Ede, che è lo sponsor. Esatto, che è lo sponsor di un po' tutti noi. I ragazzi che giocano nella squadra che si chiama Garage Le Mans. Ci vogliono anche i giocatori, chiaramente, non solo gli sponsor. E beh, cioè, questa sera ci vogliono anche loro. A festeggiare il loro compleanno, ci sono andati benissimo. No, bene, bene, ci fa piacere. Serata. Passiamo parola ai ragazzi qua dietro che non hanno parlato stasera. No. A meno dire qualcosa. Hai parlato fin troppo, forse, Claudio, non credi? Vai, vai, una Sicella, allenatore. Cosa devo dire, ragazzi? Sono spenti, sono spenti. Sono per la squadra. Ma cazzo. Ah, c'è il motivatore addirittura, c'è ancora questa figura. È il mister. La squadra della Garage Le Mans, abbiamo tantissime, anzi. Tot cheerleader. Si presenta adesso. Ma che attenzione, anche le supporte. Ah, sì, è vero. E abbiamo bisogno di sostegno e tifo, certo. Mister, quali sono le ambizioni, dai, della vostra stagione? Quest'anno vogliamo vincere lo scudetto quest'anno. Bravo, punta sempre in alto. Dobbiamo puntare a passare di categoria quest'anno. È giusto. Bene, vedi che si riforma anche la squadra, come è giusto che sia. È il bevitore quello là. Quanto borracce? Ci vuole anche quello assolutamente. Bene, però, dai. Abbiamo salutato tutti. Sì, abbiamo salutato tutti, abbiamo salutato la squadra. Hai detto il nome della squadra? Il negozio della squadra Garage Le Mans. Sì, l'ha detto. Sponsorizzato da Smart Michael Ghilardi e F. Ede. Quando metti i soldi? Se no non si sponsorizza. Li metterà. Volevo salutare mia mamma e mio papà. Ciao mamma, i papà, il fratello e parenti, Maria. Tutti. Sono l'unico che entra. Tiziana Chiara, Giuseppe Vezzoli. Signor genitori che ha cresciuto questo bravo ragazzo. Saluto anche l'amorosa che in questo momento non so dove sia perché non c'è, però va bene. Quindi fatevi avanti. La saluta per il futuro. Signorina Francesca che magari. A uomini e donne, io guarda, io sono a posto così. Facebook e Davide Belotti, aggiungetemi. Bene, bene, bene, anche questo messaggio d'amore ci sta. E alla fine tanti auguri. Sì, ricordiamolo ancora. Michael e Visma, tanti auguri Michael e Visma. Sì, ciao. No, ringraziamo comunque il... Chi è? Vabbè, no, io sono parte di un tutto. Non si può chiamare Benji. Va bene, vai tranquillo. Ti ringrazio. Speaker, va bene. Su Ristoradio Convento, che è la radio del nostro locale, assolutamente sì, in diretta ma anche in replica, perché da domani potrete risentire quello che è successo. Certo, assolutamente sì, adesso vi spiego come fare. Ricordiamo ancora quindi Michael e Visma, tanti auguri, 30 anni per il loro compleanno, speriamo sia stata una festa all'altezza delle vostre aspettative. Sì. Molto bene, grazie mille ragazzi, buon divertimento e buona festa ancora, ciao! Ciao sballati! Ciao. Tutti gli sballati ci ascoltano!